noi abbiamo due tori scatenati che scalpitano per entrare in campo. Voi avete chiesto di loro e ora li avrete. Eccoli là! Tutti convocati, di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Amrabat anticipato, Insigne penetra, Zola tira per lui, lo piazza, rete! Insigne, Lorenzo il Magnifico! In questo momento sono molto più incazzato per il gol subito e per la prestazione, perché in una manifestazione dove la differenza reti può essere decisiva non si può regalare un gol così a 10 secondi dalla fine, quindi in questo momento non riesco a essere soddisfatto. X aggredito, attenzione, Mertens tutto solo, Mertens rete, non può sbagliare, rete, Mertens punisce il Feyenoord. Significa che stiamo giocando molto bene, che dobbiamo continuare così e che quando arrivano anche le grandi partite che dobbiamo fare anche queste gol e queste occasioni e dobbiamo mettere la palla dentro. Attento. Attenzione a Callejon, destro secco, rete, rete, dal 2-1 al 3-0 in un attimo, Callejon, 3-0. Se mi chiede fare il centravanti lo farò, come so farlo. Come sai farlo? Non lo so, imparerò un po' di Dries, di quelli che lo fanno sempre, lo farò come... come sempre, come sto facendo adesso. Allora, riassunto sonoro della vittoria di ieri sera, 3-1 del Napoli in Champions League. Quel gol subito nel finale, proprio negli ultimi spiccioli di partita, ha fatto incazzare Sarri per questioni di differenza. Tiago Pardo, buongiorno. Ecco. Surprise, surprise. Benissimo, molto bene. Giorgio De Luca, il nostro autore, è contento perché Napoli ha vinto. Gianmarco Ferronato in regia, mettiti comodo. Eccoci. E intanto, allora, abbiamo sentito le voci di Mertens e Callejon. Callejon ha detto: posso anche fare centravanti, servisse, sono qui, imparerò da Dries Mertens, il quale ha risposto, sentiamolo subito. Poco fa ho sentito Callejon che ha detto: io sono pronto a vestire anch'io la maglia da numero 9 per dare una mano e il contributo. Come lo vedi da attaccante, tu che hai fatto la stessa trasformazione da attaccante esterno a centravanti? Lui ha detto questo? Sì, sì, dopo lo sentiamo. Ha detto: io sono pronto. No, va bene, siamo tutti pronti, vogliamo aiutare la squadra e questa è la più importante. E questo era Dries Mertens in risposta a Callejon. Salutiamo insieme Sollazzo. Oh, Sollazzo, Mori, Sollazzo. Di nome di fatto oggi. Buongiorno. Sollazzo. Salve a tutti, salve a tutti. Io non farei arrabbiare Mertens per nulla al mondo. Il modo in cui dice Callejon ha detto questo fa capire cosa, che sono volati gli scarpini nello spogliatoio. No, mi sembra eccessivo. No, dai, è tutto sotto controllo. Io ho visto Napoli ieri. È una battuta, ma fa capire anche la voglia che ha il ragazzo e peraltro, insomma, se c'era il dubbio che il Napoli fosse un gruppo, prima l'Instagram Stories di Mertens e poi lo striscione di ieri e anche, diciamo, la maglia esposta dopo l'errore da Insigne fa capire che forse il Napoli non vincerà, ma di sicuro ha il gruppo più bello in questo momento. Sei d'accordo, Pardo? Sono d'accordo, il gruppo in questo momento è la grande forza del Napoli, oltre alla qualità dei giocatori. Il gruppo della Juventus non mi sembra malato, una squadra rodata, costruita, fa il turnover con gli occhi chiusi. Allora, premesso che Napoli e Juve giocano, e secondo me anche la Roma potenzialmente, insomma, giocano un calcio di grandissimo livello, è chiaro che la qualità del gioco del Napoli è un pochino più abbagliante, è chiaro che il lavoro di squadra di Sarri è un pochino più luccicante perché il Napoli ha qualcosa in meno in termini di fatturato, in termini di mercato, in termini di fuoriclasse, almeno di fuoriclasse dal punto di partenza. Poi lo sono diventati, Mertens è diventato fuoriclasse, Callejon è diventato, però sono cresciuti grazie al lavoro in certi casi anche di Benitez e poi di Sarri, quindi questo è il tema. Che ci siano problemi nello spogliatoio ovviamente no, è un ambiente compattissimo. Il vero punto interrogativo secondo me riguarda la profondità della rosa, perché è chiaro che l'infortunio di Milik comunque un danno, secondo me, più che altro sulle 38 partite, più che altro sul campionato, rischia di crearlo. Ma tutto no, qui. Ma comunque non è un'idea balzana, quella di Caliavan. Può essere sembrare una boutade, però anche Mertens l'anno scorso, chi avrebbe detto che diventava potesse diventare un centravanti di questo spessore, di questa taglia numerica, quindi è meno butato di Mertens, perché Calleon l'ha fatto già nell'Espagnol, Calleon l'ha già fatto con Benitez. Appunto. E ieri Sarri, mettendo Rog sulla destra, dice a tutti che sta provando il sostituto di Calleon, e quindi siccome Calleon non esce nemmeno se gli spari dal campo, il sostituto di Calleon lo cerchi solo perché lo vuoi mettere numero 9. Sì, sì, non c'è dubbio. Allora, partiamo dal Napoli, poi ovviamente andremo sulle vigilie della Roma. Cosa interessante, gioca a Baku, che non è esattamente Karabag, ma perché Karabag non esiste non più, esiste. Come sappiamo ormai da 24 anni, questo è comunque una storia da ricordare, perché è una storia che è lunga, di 24 anni fa, però è giusto ricordarla. Parleremo di Juventus. Notizia, Pardo, Higuain va in panca. Ufficiale? Sì. Beh. Che dici, Sollazzo? Che peccato, quanto mi dispiace. No, è la dimostrazione di quello che dico io su tutti i giocatori del Napoli che stanno in questo momento nella rosa del Napoli. Giocare nel Napoli di Sarri non è giocare nelle altre squadre. Io ho l'impressione che non si rendano conto che rendono il 150%, e lo stesso vale per Higuain. Higuain, da quando se n'è andato Higuain, il Napoli segna di più, mentre Higuain alla Juventus non ha dato niente di più di quello che avevano già dato altri giocatori come Morata, nel senso che hanno vinto gli stessi trofei, e quando si è trattato di dover fare qualcosa Higuain non è servito. Venivo molto preso in giro quando si è appena venduto che Higuain al Napoli era un affare solo per il Napoli, adesso forse inizieranno anche gli juventini a darmi ragione. Poi, non è per che carità, abbia fatto una stagione così disastrosa l'anno scorso, migliore stagione quando appunto. In Italia. No, io credo che come sempre nella vita ci vuole equilibrio. In questo momento la condizione fisica, secondo me, psicologica, perché sappiamo che l'aspetto psicologico degli attaccanti è importantissimo, di Higuain non è all'altezza di altri giocatori. Secondo me Allegri ne approfitta anche per dare un messaggio a tutti. Cioè, secondo me, punire Higuain, tra virgolette, punirlo, insomma, lasciarlo in panchina, è un messaggio implicito che dà a tutto il resto della rosa. È un messaggio importante per Mandžukić, che potrebbe essere uno che alla lunga potrebbe anche un po' soffrire e farsi qualche panchina. Cioè, è una gestione, secondo me, oculata, tecnico-psicologica dello spogliatoio, niente di più. Poi, per me, Higuain va oltre i 20 gol anche quest'anno. Faccio una scommessa. Anche secondo me. Poi parleremo anche dopo la borsa, così facciamo un riepilogo e poi vi prenotate. 800240024 dello strano caso Milan, Montella, Gricenzia, Marra, preparatore atletico vegano. E abbiamo una ricostruzione anche sonora. Mangia come parli, tutti mangia i come parli. Tutti i sabati alle 9. Occulta. Sì, non. No, ma torniamo ancora un attimo sul Napoli, sì. Per favore. È chiaro che il Napoli ieri sera era con le spalle al muro, quindi una situazione anche emotiva non semplice per la squadra di Sarri, perché è sempre una partita di Champions League, devi vincerla a tutti i costi. Ha fatto il suo, ha preso quel gol nel finale, nonostante la rabbia di Sarri. Io non credo che in questo girone finirà per essere decisiva la differenza reti. Non credo, vado a spalle dopo due partite. No, non credo, però io credo che lui si sia arrabbiato, non so, c'è ancora Boris, giustamente, perché io facevo diretta premium di quella partita. Non puoi prendere un gol a 17 secondi dalla fine contro una squadra che avevi annientato, non puoi prenderlo, e quindi lo capisco perfettamente, insomma. Cioè, ma poi lui lo fa sempre, ragazzi, lo fa sempre. Ogni volta che prende gol negli ultimi minuti, ogni volta che il clean sheet viene evitato per una stupidaggine, che sia. Poi ieri si è inventato la differenza reti, che peraltro dubito che il Feyenoord arriverà alla pari con una delle altre tre squadre, sarà abbastanza ininfluente. Ma lui è sempre così, insomma, sulla distrazione. Ma non era l'unico, ci sono stati tanti allenatori, l'abbiamo visto, Allegri, Zeman, anche tanti allenatori molto diversi che sulla distrazione inutile si arrabbiano molto di Allegri, più. Allegri, questo è un vizio che si deve togliere la giacca, no? Anche se lì rischiava di pareggiare perché era il gol del 3-2, quindi aveva passato. Esatto. Però in generale quello è il tema, sono d'accordo. No, ma poi comunque è un vizio che il Napoli si deve togliere, questo di subire sempre quel golletto in più, che ieri sera non è stato pesante, in altre situazioni lo ha costretto a rimontare. Sappiamo bene come quale sia il gioco di Sarri, siamo tutti curiosi di vederlo contro Guardiola. Però in effetti è un vizio da sistemare sul Lazio, per chiudere. Credo che Sarri si arrabbi per il gol, ma in verità si arrabbi soprattutto per il rigore, perché quello era veramente pericoloso a 24 minuti dalla fine, 2-1, una partita che avevi dominato, avevi avuto almeno 5 occasioni da gol, dovevi stare 5-0 in quel momento e con ogni probabilità avresti rischiato di pareggiarla. Quindi secondo me lì Sarri usa quell'episodio per dire al Napoli che ieri era distratto in molte vesti. Dopo il gol di Insigne il Napoli non ha fatto la sua miglior partita, no, l'ha fatta e ringrazia Reina un'altra volta, sì. Ringrazia però, Reina un'altra volta, però ti posso però dire Reina, ieri poi bisognerà anche capire cos'è il Feyenoord, questo per onestà, perché c'è anche la possibilità che il Feyenoord sia poca roba. Ma detto questo, io ieri ho visto un Napoli invece che a me è piaciuto, che non ha praticamente rischiato nulla, che non ha, insomma, sono peccati indubbiamente il calcio di rigore concesso e il gol del 3-1, però mi sembrano peccati abbastanza momenti sporadici, momenti che non determinano una tendenza. Io ho visto una squadra molto sicura, non ho avuto un dubbio mai sulla vittoria del Napoli. Non so se Boris ha avuto lo stesso tipo di sensazione. È chiaro che sono dei particolari da limare, importanti. No, sono d'accordo, io non è che abbia avuto dubbi non li ho avuti neanche sull'1-0, però è vero che sul 2-1 con un rigore regalato quello sarebbe potuto succedere. Secondo me ieri il Napoli con una squadra scarsa, io credo che il Feyenoord rimarrà a zero purtroppo, e questo sarà un problema per il girone del Napoli. Tu in costruzione sei stato straordinario, sono d'accordo con Pierluigi. Dietro sei stato molto più distratto di quanto avevi dimostrato in questo inizio di campionato, molto più simile a quello con la spalla che a quello con il Bologna o col Verona. Però quello, guarda, è un difetto che secondo me il Napoli un filo si porterà sempre dietro, ci sta lavorando e sta migliorando da questo punto di vista, sicuramente. Però che deve crescere per Luigi. Però voglio dire, insomma, il Napoli qualcosa concede sempre. Secondo me è un effetto collaterale, un danno collaterale di una squadra. Ieri non c'era il Viola? No, certo. Ma anche questa scelta abbastanza non ha potuto rischiare. Senta Sollazzo, la saluto. È una sorta di burattinaio della difesa del Napoli. La devo salutare, Boris Sollazzo. A presto. A risentirci. Allora, adesso andiamo con il traffico, poi torniamo. Subito dopo l'intervallo, la lotta continua. Tutti convocati. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it. Vi presenta Tutti convocati. La mia scelta non si lega al tipo di partita che andiamo ad affrontare, ma al fatto che voglio dei giocatori che affrontino al meglio ogni gara, come questa. Perché questa è una gara molto delicata dove si danno dal mio punto di vista per scontate troppe cose. Invece bisogna avere grandissimo rispetto per il Karabakh, per la sua storia, per quello che ha fatto, per come ci è arrivata, e vi assicuro che non sarà una partita facile. La partita non si sottovaluta assolutamente, anche perché non siamo in grado di sottovalutarla. Uno, perché le partite di Champions comunque sono tutte difficili, le squadre fino alla fine giocano, loro è una squadra molto veloce davanti, a campo aperto ti può far male, e noi abbiamo solamente un risultato, quello della vittoria, visto che la prima partita abbiamo perso a Barcellona, quindi è un girone che dobbiamo praticamente iniziare, e va iniziato con una vittoria, altrimenti il passaggio si complicherebbe. Avete capito, Di Francesco è allegri alla vigilia di questa giornata, serata di Champions League. Partirei da una signora che conosci molto bene e che si trova ai confini dell'impero, a Baku. Francesca, benvenuti, buongiorno, inviato per Media Sapremo. Ciao Fra, come stai? Buongiorno a tutti, ciao Pier, buongiorno ciao. A tutti. Dici qualcosa su questa città, vale la pena andarci in vacanza? A Baku? Beh, proprio in vacanza no, però è una, secondo me no, almeno per il mio gusto, però insomma fa impressione, ecco, questa sospensione fra passato e futuro, con grande profusione di acciaio, di torri, grandi luci, è una città estremamente illuminata di notte con tanti LED che disegnano un po' l'idea che si vorrebbe dare, no, a questo paese, a questa città di grande modernità, con anche molte contraddizioni, come spesso accade ancora in queste terre un po' di frontiera, ma certamente veramente con un orgoglio incredibile, tant'è che stasera lo stadio che ieri ci risultava contenere 50.000 persone sarà tutto esaurito, verrà il capo dello Stato, il Presidente Azzero, a vedere questo Karabakh, che cercherà soprattutto no, di risvegliare anche quella guerra silenziosa che è scivolata negli anni 90 e che di fatto ha distrutto quella città. L'unica cosa che rimane di Karabakh è questa squadra e questo secondo me ha un peso. Beh, Agdam rasa al suolo nella guerra del Nagorno-Karabakh, stiamo parlando di 24 anni fa, viene definito, non esiste più la città di esiste la squadra. Agdam, esiste la squadra, la chiamano l'Hiroshima del Caucaso, quindi sostanzialmente una squadra di profughi questa. Sì, tra l'altro ci sono ancora moltissime persone nel club che è originario di Agdam, che nel frattempo oltre che essere un cumulo di macerie e di rifiuti gli è stato anche cambiato il nome. Addirittura il vice allenatore Usenov, il vice di Gurbanov è originario di Agdam. È un modo chiaramente per trovare un certo tipo di riscatto anche attraverso il calcio. A livello nazionale il Karabakh è una squadra forte, ha vinto gli ultimi 4 campionati di fila, ha vinto 6 coppe nazionali. Chiaro, tecnicamente la Roma gli è superiore, questo insomma anche Di Francesco non ha avuto difficoltà a dirlo, però insomma l'esempio di Borisov ci deve ricordare che insomma quando ci si spinge lontani da Roma e magari ci si crede di imbattersi in squadre insomma così che liquidi con la mano sinistra, beh insomma non è esattamente corretto. Ci vuole un approccio, ecco, la parola approccio secondo me è la parola fondamentale, perché poi la partita potrebbe, ce lo auguriamo ovviamente, essere in discesa a un certo punto, però ci vuole quel tipo di atteggiamento, cioè devi faticare prima per non faticare dopo, secondo questo me. Questo è chiaro. Poi io credo che insomma la differenza tecnica sia molto grande, però insomma questa squadra in Europa fa tanta fatica, soprattutto fuori casa, è tantissimo che non vince. Ed 639 giorni cito a memoria. Esatto, ed è fra l'altro insomma anche un po' a caccia di se stessa, nel senso che è partita con un po' di scetticismo che secondo me le ha anche fatto bene, perché i fari spenti a Roma aiutano sempre in assoluto, a Roma in maniera particolare, perché tanto per entusiasmarsi in maniera meravigliosa poi c'è sempre tempo dopo, quindi credo sia un test abbastanza indicativo. Formazione, sappiamo qualcosa? C'era quel discorso di Dzeko. Dzeko è assolutamente imprescindibile, lui e Kolarov sono gli unici giocatori addirittura citati da Di Francesco come titolari assoluti questa sera, e io ci aggiungo anche Alisson, perché poi sono i tre che non ha mai a cui non ha mai rinunciato dall'inizio in questa stagione. Le rotazioni ci saranno, perché poi anche in Europa vale questa regola che serve non tanto a dosare le energie, secondo me, ma a portare i famosi due titolari per ruolo allo stesso livello. Allora ci aspettiamo Juan Jesus e Perez in difesa, Gonalon e Pellegrini a centrocampo, a destra non ci sarà Perotti, che era già arrivato qua con la caviglia suturata e tra l'altro ieri sera ha avuto un altro problema, ci sarà De Frel con Dzeko e con El Shaarawy, che è un giocatore assolutamente ritrovato. Però vedi, questa rotazione qui non ce l'hanno in molti. Io guarda, mi dispiace di essere stato un po' negativo e non vorrei che sembrasse una cosa legata ai risultati più di quanto è, perché poi i risultati ovviamente condizionano il nostro modo, vediamo le partite e a seconda di quello che succede possiamo anche cambiare idea. È una squadra in gran parte da scoprire. È una squadra in gran parte da scoprire, con un potenziale fra centrocampo e attacco, secondo me, clamoroso. Sono d'accordo. Cioè, salutiamo la signora Benvenuti. Anche perché si gioca alle 18. Si gioca alle 18. Praticamente tra poco ci risentiamo per chi vorrà seguirci, ovviamente su Premium dallo stadio. Vi abbraccio. Grazie, ciao. Francesca Benvenuti. Allora, andiamo sulla Juventus rapidamente. Anche qui il grande dubbio. Ieri è stato chiesto ad Allegri: ma Higuain gioca o non gioca? Domattina dopo la rifinitura decido, non ho ancora deciso chi saranno i quattro davanti, e domattina poi deciderò, ma comunque lo ripeto per l'ennesima volta, Higuain non è un problema, sarebbe un problema se non giocasse nella Juventus. Nell'arco di un'annata, quando hai un parco giocatori importanti davanti come la Juventus ha e come io ho la fortuna di poter allenare, capita il momento in cui sta fuori Higuain, sta fuori Dybala, sta fuori Mandzukic. Abbiamo una partita, delle partite uno ogni tre giorni, fortunatamente giochiamo uno ogni tre giorni, quindi vuol dire che siamo dentro la Champions, vuol dire che c'è campionato, Coppa Italia, e quindi può capitare, ma non vedo assolutamente un problema Higuain. No, non c'è assolutamente un problema con Higuain, tanto che sta dove era nel weekend, dove era sabato sera, cioè in panchina. Max Nerozzi della Stampa, ciao! Ciao, non c'è più dubbio. Non c'è, tolti i dubbi. È stato di parola. Rifinitura della mattina. Poi vediamo se gioca o non gioca. Prima di tutto gioca Neto, ti ricordi quando, l'anno scorso? Prima cosa gioca Neto. No, a parte le battute, ma no, Allegri ha ragione. Però insomma, oggi, mentre l'altro giorno secondo me non c'era notizia, oggi notizia c'è, perché due di fila non è più, voglio sentire Max, non è più un turnover, diciamo, scientifico, quasi da ragionieri, che ci può stare vista la ricchezza della rosa della Juve. È forse un segnale? Ma guarda, dal punto, cioè, non è nella norma, nel significato statistico del vocabolo, perché Higuain non stava due panchine dall'inizio del campionato scorso contro Fiorentina e Lazio, ma era appena arrivato. E soprattutto non ha mai saltato una partita di Champions League, tranne l'anno scorso a Siviglia, quando però era infortunato. E quindi insomma la storia statistica, già come dicevi tu, legge queste due panchine a caso. Poi bisognerà vedere i motivi e le ripercussioni, però è evidente che non è una cosa normale. Senti, ma è vero che è fuori forma? Togliamo ogni sì, dubbio, sì. È vero che è inciccionito, che non riesce a buttare via quel peso di più, quel famoso mattone di cui parlava De Laurentiis? Ma guarda, non è esattamente una questione di peso, come dicevi tu, è una questione di forma, di condizione, e tant'è che lo stesso Allegri, se vi rivedete le conferenze degli ultimi giorni, non ha mai parlato di un problema del gol. Certo, Higuain non segna, ma non è che non segni da un mese. Però è un problema di condizione e di atteggiamento, come lui già disse dopo Barcellona. Questi motivi appunto vanno a supporto del fatto che non è un normale pitch stop, come è capitato a Mandzukic, come è capitato a Dybala contro Chievo, ma è una questione un po' più profonda. Diversa, sì. No, ma non c'è dubbio. No, non c'è dubbio su questo. Stasera però appunto la Juventus deve vincere e poi si faranno i conti, perché immaginati ci fossero dei problemi. Poi è chiaro che Higuain in panchina può anche entrare a segnare, mica vietato dalla legge, sì, però no, è una scelta precisa questa. Non è vietato dalla legge. Carlo, scusami, dimmi Max. Abbiamo vista da Allegri che ha le sue ragioni che spiegavamo prima. Io vorrei però guardare anche dagli occhi di Higuain, nel senso che non si discute che è fuori condizione, perché al di là del gol, insomma, basta vedere con Sassuolo, con la Fiorentina, mancavano proprio le giocate e i movimenti. Detto questo, Higuain stesso si chiede quanti palloni o come gioca la Juve, che più o meno ha sempre giocato così. Faccio l'avvocato del diavolo e chiedo: se fate giocare Douglas Costa da una parte e Cuadrado dall'altra, che si potrebbe anche allungare una metafora su come lui giocava a Napoli, con due esterni così, e al posto di Mandzukic mettiamo Higuain, non so, io secondo me si mettono a contare i gol con un pallottoliere, però magari mi sbaglio. Sì, ma infatti, però io credo che sia anche un segnale non soltanto a Higuain, ma al gruppo, come dicevo prima, un segnale a Mandzukic che potrebbe dover saltare delle partite quest'anno, che c'è grande abbondanza lì davanti. Un segnale ovviamente allo stesso Higuain, un segnale agli altri giocatori, a quelli che giocano di più e quelli che giocano di meno, cioè il segnale che il nome non conta, perlomeno non conta del tutto. Poi in generale io sono, ve l'ho forse anche raccontata quella conversazione interessante che ho avuto al telefono con Arrigo Sacchi il giorno dopo Barça-Juve. È ovvio che nelle partite nelle quali la Juve ha faticato, penso soprattutto a quella, perché è l'unica partita quale veramente ha faticato, quella della grande bocciatura di Higuain, è pure vero che non gli è arrivato mezzo pallone. Poi l'atteggiamento di Dybala secondo me è stato comunque anche in quella partita nettamente migliore di quello di Higuain, però insomma bisogna si sbloccherà, dai, ragazzi, non c'è, però, però oggi è una notizia. Se hai dei problemi fisici, può arrivare in ritardo quella frazione di secondo sul pallone, non fa il movimento giusto, quindi è anche più difficile che ti arrivi questo, il pallone, questo è il punto, no? Di partenza, dai, non siamo ipocriti, appunto. È ovvio che non è il migliore, ma lo sa anche lui, no? Penso che non ci Higuain sia consapevole, e arrivo anche a dirti, non mi ricordo chi lo diceva qualche giorno fa, che ci può anche stare, nel senso che siamo al 20 settembre e voglio dire, ci sta anche che un giocatore non più giovanissimo possa avere delle fasi durante la stagione. Cioè, sì, questo è il dubbio. È che alla Juve giustamente c'è grande concorrenza e quindi c'è un Mangio che è un caterpillar veramente. Tra l'altro l'Olimpiacos ha fatto 4 gol quando aveva la maglia dell'Atletico Madrid, anche con una tripletta. Insomma, ci può stare. Sì, tra altre cose, sul messaggio ha ragione Pardo, che stasera lo sai che sei in lista nei giocatori dell'Olimpiacos, no? Ah, sì. No, stasera potrebbe succedere, stasera succederà questa roba, che ci sarà Pardo e io dovrò dire, vabbè. Che succede? No, non è un cognome... Può capitare. Cioè, non è Paolo Rossi che parla di Pepito Rossi, cioè, un cognome abbastanza strano, quindi... È così. Anche De Luca annuisce. Grazie, Max. Non è De Luca attaccante, ex Atalanta, cioè, voglio dire... Ciao Max, grazie. Ciao, no, dicevo soltanto che sul segnale avevi ragione, perché già Barcellona fa entrare Higuaín, se ti ricordi, lo fece uscire a 3 minuti dalla fine, 2 minuti dalla fine, per fare esordire in primavera. Secondo me quello è un bel messaggio anche assolutamente, fuori dalla squadra. Assolutamente. Chiaro. Ciao Max, grazie. Ciao a voi, ciao. Max Nerozzi della Stampa, ci fermiamo per la borsa, torniamo con il caso Milan, preparatore Montella, perché oggi c'è stata una nuova puntata. Siamo tutti convocati. Ma proprio tutti. Tutti convocati. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. Tutti convocati. Allora, caso Milan preparatore è una storia che non è nuova, non è di adesso e non è neanche probabilmente un fulmine a ciel sereno. Perché la ricostruiamo così? Già nello scorso mese di febbraio emerse questo problema. Il preparatore Emanuele Marra, scudiero fidatissimo di Montella fin dalle giovanili della Roma, aveva preparato i giocatori una dieta vegana, soia e camù, niente carne, niente pesce, eccetera. Uscì questo problema e Montella allora a febbraio ne parlò così. Leggendo l'articolo, rapportandolo un po' ai titoli, come spesso succede, c'è qualche incongruenza. Noi non facciamo una dieta vegana perché facciamo mangiare tacchino, come c'è scritto talvolta. I calciatori, quando sono qui a Milanello, quando stiamo insieme, tutto quello che si fa qui fa parte dell'allenamento. Dunque, così parlò Montella. Poi ci fu la famosa cena a base di carnazza organizzata da Bacca. Mi stai ricordando che non ho pranzato? Vedi, incredibile. L'ho fatto apposta. E poi si è arrivati a questo punto, cioè al summit dell'altro giorno, e dopo il quale ha riparlato Montella. Analisi, confronto, presa coscienza, soprattutto quello che mi interessa più a me, che il modo e la linea su cui intervenire per poter migliorare le cose e non cercare un colpevole o più colpevoli. Questo, quindi, società mi ha chiesto soltanto di intervenire per non ripetere più queste prestazioni, ma non certo di intervenire su moduli o su calciatori che è di mia pertinenza. Ecco, non è intervenuto su moduli, su calciatori, ma su Emanuele Amarra, che ieri è stato sollevato dall'incarico. E dunque si apre il caso. Montella, infine, oggi. Ci tengo a precisare che Marra non era Marra il problema. Nel percorso professionale che abbiamo intrapreso nel primo momento, ci sta che ci possono essere delle divergenze. In questo momento sono emerse alcune divergenze su alcuni punti che in questo momento non mi sono sentito di supportare. Il mio staff e la mia famiglia, lui era un fratello, e ho dovuto fare una scelta molto molto dolorosa da fratello maggiore, ma anche per salvare gli altri suoi fratelli. Quindi in questo momento gli auguro ogni bene, lui lo sa che gli voglio bene veramente. È stata una scelta molto dolorosa, ma era inevitabile. Non è lui il capro espiatorio, è una scelta, perché non c'era più totale sintonia sul percorso da intraprendere. Ecco, questo molto doloroso ripetuto due volte sa tanto di, cioè, così è invento, di imposizione. Magari gli hanno detto: guardate, sì, o anche di scelta laica. Però questa storia della soia del camut, della dieta vegana, a me comunque pare bizzarra. Ha ascoltato tutto? Vincenzo Pincolini. Col sorriso sulle labbra. Col sorriso sulle labbra. Come stai? Mister City cacca molto bene. E mi sembra di rivedere una situazione dove io ero al centro, perché chiaramente al Milan c'è questa coda di Milan Lab che ancora si vede che si muove dietro le quinte, che ogni tanto mette a fuoco qualcuno perché vuole tornare sicuramente in auge. Io fui nel 2002 al centro proprio di queste attenzioni, perché non accettavo determinate situazioni, e adesso secondo me il professor Marra, che io conosco come stimatissimo preparatore, già di lungo corso con Montella, è stato messo nel mirino, perché sicuramente dentro Milanello c'è qualcuno che è tornato ad avere ad avere forza e vuole tornare alla ribalta. Ecco, io non credo alla storia del Camut, non credo alla storia della dieta vegana. Esatto, sono dettagli che non penso che un professionista possa farci sulla guerra, anche se, per dire, il riso venere e tutte queste cose sono prepotentemente tornate di gran moda, quando invece possiamo farne tranquillamente senza. Lì comunque mi sembra che l'aria sia pesante, ecco, perché quando non c'è chiarezza nelle catene di comando, chiaramente quando l'allenatore deve subire certe cose, la situazione è pesante. Mina Lanchi vuole tornare in auge, altra lettura data dal professor Pincolini. No, la lettura è interessante. Che aggiunge casino e casino rosso-nero, mi pare, no? Pierluigi, sono quasi sicuro, guarda, non mi lanto, ma perché poi qualche voce, qualche spiffero chiaramente vengono fuori, ecco, anche se ormai non c'è quasi più nessuno del mio gruppo. Però, per dire, ci sono sempre queste spinte, cioè, la preparazione fisica è fatta di gente che sta sul campo e di gente che a tutti i costi vorrebbe mettere il camice per fare lo scienziato, ecco. Però con gli scienziati non si è mai vinto niente. Si è vinto sempre con della gente che sta sul campo preparata, per dire, che casomai ha bisogno di consulenza, ma di scienziati veri. No? Guarda, nel nostro mondo ci sono stati pochi che gli scienziati. Piccolini, eccezionale, direbbe Sandro. No, Pierluigi, guarda, ormai abbiamo un'età dove dobbiamo e possiamo dire tutto. Nel nostro mondo ci hanno aiutato scienziati come il professor Mognoni, come il dottor Arcelli, e proprio parlando con il defunto professor Mognoni, che ti diceva: per voi nel calcio le cambia la scienza ogni 6 mesi a secondo se una squadra vince o perde, mentre per noi, nella scienza vera, ci vogliono 50 anni di esperimenti per cambiare un'idea. Ecco, quindi Vincenzo, tu escluderesti che ci sia stato un out-out da parte dei giocatori? Ma no, ma può essere, lì c'è un'aria malefica che raccoglie tutti questi malesseri, hai capito? Li coagula e poi ne fa un problema, perché chiaramente per tornare continuamente c'è un corso e ricorso di persone che sono state responsabili, poi sono cadute dietro, poi sono tornate su, poi sono tornate dietro, poi adesso ritornano su. Cioè, io penso che negli ambienti, quando non c'è chiarezza, non lavora bene nessuno. E penso anche che la chiarezza, prima di tutto, debba farla il club, la società. Queste società probabilmente organizzate con la testa in Cina, con degli operativi qua che però insomma hanno la pressione di dover fare risultati oggi, perché il Milan è una squadra messa insieme in poco tempo, quindi sicuramente Montella ha bisogno ancora di un po' di tempo per dire, però immediatamente ogni giorno devi trovare dei capri espiatori, e se c'è qualcuno che soffia sul fuoco, è chiaro che di fuochi nel mondo del calcio ne può inventare tutti i giorni. Senti, Vincenzo, ma per tagliare la testa al toro, come ti sembra il Milan come condizione fisica? Il Milan mi sembra, è una squadra che faccio difficile, che io la guardo sempre, perché in casa nostra siamo rimasti tutti milanisti davvero, e non faccio fatica a leggerla. Sicuramente per dire, devi fare dei salti sull'organizzazione in difesa, però sulla condizione fisica, un po' le prime partite, non mi sembra che sia, per dire, il primo problema, ecco, è più un problema ancora di trovare la quadra dal punto di vista, ad esempio, di decidere quali giocatori hanno un po' la priorità adesso, insomma, quello che succede nelle squadre nuove, nelle prime 6, 7, 8 partite, 10, insomma, ecco. Hai capito, Pierluigi? Quindi il Milan, però il Milan non male, mi sembra non che sta. Il Milan non mi sembra che il Milan possa, che debba arrivare primo, secondo, terzo, ecco. Quindi insomma, tutto sì, sommato. Sì, sì. Beh, insomma, diciamo che non farebbe schifo alla società. No, che primo, secondo, così tanto, non credo. Sul terzo posto, cioè, io che non credo ci sia l'ossessione del vincere il campionato, no? Evidente. Io credo l'obiettivo. Sì. In questo devo dire, il Milan ha avuto una comunicazione, secondo me, di una sincerità clamorosa. Anche Fassone l'altro giorno, insomma, le cose che ha detto nel post partita, secondo me rispondono proprio a questa. Ma è normale andare giù così duri? Secondo me magari è irrituale rispetto ad altre esperienze, ad altre situazioni, però a me non dispiace. Cioè, mi sembra che comunque il Milan abbia fatto una sorta di disintermediazione, abbia un rapporto quasi diretto con i tifosi dall'inizio, al di là delle battute sulle cose formali. Insomma, è chiaro che Fassone, Mirabelli, ma anche la stessa comunicazione portata avanti da Guadagnini, il nuovo direttore della comunicazione, mi sembra molto molto onesta, cioè, mi sembra che guardi molto il pubblico, sì. Mi sembra che guardi molto al tifoso. Questo un po' l'americana, ecco, un po', e quindi poi diretto, voglio dire, quando si perde, si perde. Io questa cosa l'ho apprezzata, così come continuo no, non è che devo difenderlo, però continuo a considerare in Bonucci, cioè, a me comunque piace che lui ci metta la faccia. Poi mi rendo conto che metterci la faccia in un momento in cui i tifosi sono arrabbiati e continuare a dire hungrier than ever, cioè più arrabbiati di sempre, certo, li faccia certo, più affamati di sempre, li faccia diventare più arrabbiati di sempre, perché giocando sul facile gioco di parole all'inglese. Però secondo me Bonucci sa di essere un leader, sa comunque di essere uno che nella sua carriera ha vinto tanto, e mi sembra una forma di generosità metterci la faccia in un momento come questo, no? Quindi, assolutamente, in un gruppo dove forse ci vuole anche uno che ci metta la faccia sopra gli appunto, altri, appunto. Quindi a me la comunicazione non sta affatto dispiacendo, e poi in campo si vedono partite non all'altezza, soprattutto due partite, poi siamo all'inizio. Quello della Lazio, quello della Sampdoria non sono accettabili, onestamente, anche se torno a ripetere, mai si è visto una rivoluzione di questo tipo. No, parlavo ieri con Marino Bartoletti, a memoria mai si è visto una rivoluzione di questo Ferraro l'altra sera, cioè è una sarebbe stato impensabile veramente. Adesso, cioè, una roba del genere è una rivoluzione, ed è forse la rivoluzione più grande della storia del calcio moderno in soli 2 mesi. Quindi che ci sia un tempo di gestazione, questo è evidente. C'è però confusione, c'è confusione tattica, sono stati provati schemi diversi, moduli diversi, e mi sembra con risultati fin qui alterni, insomma, diciamo alterni. Poi Bonucci anche oggi ha detto: posso giocare a 3-4, per me non è un problema, eccetera. Credo che i problemi siano altri. Vincenzo, grazie. Grazie Vincenzo. Buongiorno e buona trasmissione a tutti. Ciao, presto, ciao. Vincenzo Pincolini. Un inconfondibile accento, una R quasi inconfondibile, signor Pincolini. Pam. Come si può sbagliare? Pam dintorni. Allora, traffico, torniamo. I love this game. Tutti convocati. Convocati. Allora, da qualche giorno che volevo fare un salto con te negli Stati Uniti, perché abbiamo parlato prima di Karabakh, la città fantasma, quella che non esiste più, altro caso tra sport e politica, quello dei giocatori americani che si inginocchia per l'inno nazionale in segno di protesta forte contro il presidente Trump, e allenatori e proprietari con la mano sulla spalla dei loro giocatori in segno di solidarietà. Io credo sia solo all'inizio di una storia che ci terrà legati per parecchio tempo. New York, Simone Sandri, ciao. Buon pomeriggio. Dunque, che mi dici, Simone? Dico che è una situazione molto particolare, siamo in un territorio veramente particolare, perché inesplorato, sì, perché dopo la presa di posizione di Trump, di una protesta che non era contro Trump, la protesta di Kaepernick era contro il razzismo e la violenza della polizia, è iniziata durante l'era Obama, è iniziata il 24 agosto dello scorso anno, per cui non era contro Trump, lo è diventata dopo la presa di posizione del presidente durante il weekend, che ha chiesto ai proprietari NFL una reazione nei confronti dei giocatori, peraltro pochi in quel momento, perché era una situazione che stava scemando, una situazione che non era più sulle prime pagine. Invece questo weekend è tornata in pole position, è tornata assolutamente di prima pagina, con molti più giocatori che sono inginocchiati, con squadre che hanno deciso di rimanere negli spogliatoi durante l'inno per evitare polemiche, e con giocatori che hanno opinioni opposte, come per esempio Alejandro Villanueva e Clement Marin, che tocca nei Pittsburgh Steelers, che ha deciso, nonostante la sua squadra fosse rimasta negli spogliatoi, di andare da solo ad ascoltare l'inno con la mano sul cuore in campo. Per cui questa situazione sta dividendo ovviamente la nazione. C'è una conversazione che secondo me è interessante e affascinante, perché parla del freedom of speech, che è assoluto negli Stati Uniti, per cui ti costringe quasi ad avere queste conversazioni che sono difficili tra due posizioni che hanno delle ragioni entrambi. Per cui è molto, secondo me, importante questa conversazione, è anche interessante quello che sta facendo. Certo, l'NBA deve ancora cominciare, credo che anche lì qualcosa potrebbe succedere, no? Qualcosa potrebbe capitare. No, sicuramente questa presa di posizione contro Trump da parte di allenatori e di giocatori NBA sono abbastanza chiare, è successo ovviamente nel Media Day, soprattutto a San Antonio e a Cleveland e a Golden State, con LeBron, Kerr e Popovic, che hanno espresso la loro opinione. È vero che l'NBA è un po' diverso, perché a differenza del football, da NBA, nel football le squadre sono in campo dal 2009, quindi è molto più recente, durante l'inno sono in campo dal 2009, molto più recente. Nell'NBA è una tradizione per i giocatori NBA di essere in piedi durante l'inno, certo. È una richiesta che aveva fatto anche Stern 20 anni fa ai giocatori di rimanere in piedi durante l'inno, per cui è interessante anche sapere quello che succederà. E poi non dimentichiamoci però che questo va sempre a un discorso di freedom of speech che è fondamentale, che è il momento, tu vivi in America da parecchi anni, è il momento più complicato, più di un'America più divisa, perché insomma abbiamo visto quest'estate, poi sai, non è che arrivano sempre, no? Quando ci sono stati gli scontri in Virginia, sono stati in prima pagina sui giornali italiani, però c'è stato un corteo ad Atlanta per Martin Luther King, gli scontri a Dallas contro la rimozione delle statue sudiste, c'era stato appunto Charlottesville in Virginia, c'è questo Ku Klux Klan che insomma sembra incredibile, ma ancora esiste evidentemente nell'America profonda, quella che poi di fondo ha votato in maggioranza per Trump. È il momento più complicato da questo punto di vista? Guarda, è un discorso interessante, verrebbe da rispondere di sì, però è anche vero che io sono qui da tanti anni e sono tanti anni che sento che non ci può essere più divisi. Nel secondo mandato di Bush c'è un'America che era incredibilmente divisa, anche nell'era Obama c'è un'America molto divisa e non per nulla è arrivata poi la candidatura di Trump, per cui sembra quasi che ogni 4-5 anni ci rendiamo conto che l'America è ancora più divisa. Sì, in questo momento sicuramente sembra c'è una sensazione di divisione pazzesca, perché le posizioni continuano a. Certo. La differenza di posizione continua ad aumentare. Sì, la gente sembra nascondersi un po' più sull'angolo più lontano da prima e non c'è un vero, soprattutto siamo, io ti dico come la vedo da qui, c'è un presidente che appena c'è un mezzo casino, tanto per essere chiari dal punto di vista dialettico, perché hai fatto bene a ricordare che anche durante l'era Obama c'erano le manifestazioni per le violenze di una parte, certo, ovviamente non di tutti, i poliziotti nei confronti degli afroamericani, quindi voglio dire è un tema che con un presidente afroamericano comunque aveva... non solo, c'erano anche le proteste di parti che consideravano la presa di posizione di Obama, per esempio, una deriva socialista. Certo, valutare le opinioni. Però cioè, quello che mi sembra è che con Obama, per carità, ma anche con lo stesso Bush, quando c'erano questo tipo di situazioni, non c'era un presidente che ci si lanciava quasi contro. Bravo, veramente con anche qui con un elemento di disintermediazione. Parlando di andato giù dritto, licenziati i giocatori, non è che si fa così. Questa è la novità. Ma forse, ti dico, se la guardi da un punto di vista tecnico possiamo anche dire che sia così. È vero che è cambiata la comunicazione, è cambiato il tweet. Se noi avessimo avuto Twitter all'era del di Bush, secondo di Bush padre anche. Se avessimo avuto i social media ci sarebbe stato sicuramente comunque molti più voci. Per esempio, si parla adesso di prese politiche di commentatori sportivi, una cosa che non si era mai vista, ma 10 anni fa non si sapeva neanche che opinione politica avevano i commentatori sportivi, certo, perché non essendoci il social media, per cui è cambiato anche. È la democrazia, tutto cambiato. Grazie Simone, a presto. Grazie a voi. Questo tema io penso ritorneremo, è davvero interessante. Chiedo scusa a Fabio e Antonio che erano in linea, però un tema. Domani ne parliamo, domani parliamo tutto il resto, anche perché avremo le partite. E c'è l'ultima cosa, in 5 secondi, lo sport italiano, lo sport europeo, di fronte a situazioni di questo genere avrebbe la stessa forza, la stessa compattezza, non lo so, poi forse non lo so, poi non dimenticare che in America lo sport è comunque un veicolo fondamentale di comunicazione, la comunità afroamericana ha un peso politico. Strettamente tecnico in certi sport straordinari. Grazie Pierluigi Pardo, Giorgio De Luca nostro autore, Gianmarco Ferronato domani. Resistete, mancano soltanto 23 ore e 5 minuti alla prossima puntata di Tutti Convocati. Ciao ragazzi. Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Saluti.